Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. A tutte le persone in ascolto, nuova puntata di Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che guarda al mondo di tutti gli animali e non. Puntata da 2-0, siamo infatti giunti con soddisfazione, sacrifici ma tanta passione alla 500esima puntata di questa trasmissione. E oggi vi parleremo di squali del Mediterraneo e un progetto per salvarli, di orsi in fuga, di orsi investiti e di cartelli stradali impallinati, di Filippo, un passerotto che ha cambiato la vita di una famiglia, e dei drammatici incendi che si stanno diffondendo in Amazzonia. Altre notizie, la musica scelta da Giuseppe Coco e il piatto non violento del giorno di Gabriele Palloni, dedicato alla nostra 500esima puntata, completeranno il quadro. What feels good? Love you Uptown glass for if the clock is right or if it's wrong. Anche quest'anno il Gargano, il noto promontorio pugliese, è stato una meta turistica gettonata per italiani e turisti. Ma molti non sanno che proprio da queste zone è partito un progetto innovativo, Safe Sharks, che riguarda la tutela degli squali, nello specifico le verdesche. In questi giorni, 4 squali sentinella della specie verdesca stanno infatti nuotando nelle acque del basso Adriatico, raccontando in diretta dettagli sul loro comportamento, ovvero la durata dell'immersione e gli spostamenti, grazie a speciali marche satellitari precedentemente applicate dai ricercatori sugli animali. Le verdesche che vengono catturate accidentalmente e poi liberate sono infatti tra le specie di squalo più colpite dal fenomeno del bycatch, che significa appunto cattura accidentale. L'obiettivo del progetto Safe Sharks è proprio quello di valutare le probabilità di sopravvivenza degli squali che vengono catturati e realizzare con i pescatori le linee guida per la manipolazione e per le tecniche di rilascio ottimali. La raccolta dei dati ottenuti grazie agli squali sentinella dell'Adriatico saranno molto utili per migliorare la conoscenza delle popolazioni di queste specie e aumentare così gli sforzi di conservazione. Il progetto è frutto del lavoro congiunto del WWF, ONG, ricercatori, in sinergia con la comunità di pescatori di Monopoli, la più importante dell'Adriatico per quanto riguarda la pesca del pesce spada. Molta gente non sa che la verdesca è uno squalo, spiega il biologo Pierluigi Carbonara nell'articolo pubblicato sulla Stampa il 25 agosto. E ci sono anche casi di contraffazione alimentare continua. Da qui si legge sempre sull'articolo l'idea di coinvolgere il primo anello della catena. Sarebbe impensabile portare avanti questi studi senza i pescatori. Chi va per mare è il nostro primo alleato, conclude. In generale, gli squali dei nostri mari non se la passano per niente bene. Il WWF parla di vera mattanza silenziosa e invisibile e di una biodiversità devastata dalla pesca. L'organizzazione ambientalista denuncia infatti come negli ultimi 10 anni il trend sia peggiorato. La verdesca a volte viene commercializzata come tale, in altri casi contraffatta, basta togliere la pelle e si spaccia per spada, denuncia il WWF. Per la Guardia Costiera è una delle 3 frodi nel settore più comuni in Italia. Gli squali, dichiara il WWF, sono da sempre parte della cultura del Mediterraneo. Dobbiamo agire velocemente per garantire la loro sopravvivenza anche nel futuro. A noi della redazione di Restiamo Animali piacerebbe che questa attenzione fosse rivolta a tutti gli abitanti marini del Mediterraneo. Nel frattempo non ci resta che sperare che questo progetto riesca a porre le basi per aiutare almeno squali e verdesche. torniamo a parlare di orsi in questa pazza estate in cui questi animali sembrano proprio non trovare pace. Mentre l'orsa M49, di cui vi abbiamo ampiamente parlato nelle puntate precedenti, è ancora in fuga nella zona di confine tra Alto Adige e il Trentino, altri orsi sono arrivati alle nostre cronache proprio in questi giorni. Ci spostiamo però verso sud, per arrivare in Molise, dove il 26 agosto è stata investita una giovane orsa di 6 anni, vicino a Rio Nero Sannitico, in provincia di Isernia. L'orsa purtroppo è morta per le gravi ferite riportate nell'impatto con un veicolo che non si è fermato, nonostante i tentativi di carabinieri forestali e veterinari, chiamati da alcuni passanti, di rianimare l'animale. Purtroppo gli incidenti stradali sono una delle cause di morte ricorrenti per molti animali selvatici e non solo. Sono sempre più urgenti nelle nostre strade interventi per dissuadere gli animali non tanto ad attraversare, ma ad attraversare in sicurezza, con sovrappassi o sottopassi per esempio, oppure fornire strumenti che avvisino il conducente dell'avvicinarsi di un animale. Sono dispositivi già esistenti, ma ancora in fase sperimentale, e spesso non diffusi per una questione di costi. Lo stesso Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, dove è avvenuto questo incidente, ha avviato per esempio uno specifico progetto Life Safe Crossing per sperimentare, tra l'altro, tecnologie innovative per la riduzione del rischio, basate sulla segnalazione del pericolo agli automobilisti nei momenti di presenza di fauna a bordo strada e sull'allontanamento degli animali laddove i veicoli non rispettino i limiti di velocità imposti dal sistema. Dai boschi italiani passiamo ai boschi d'oltreoceano per spostarci nella foresta pluviale amazzonica in Brasile. Da diversi giorni su tutti i media nazionali e internazionali il tema degli incendi che si stanno propagando nel polmone verde del mondo stanno tenendo banco e tutti col fiato sospeso. Fotografie che ritraggono alberi in fiamme, animali bruciati o in fuga, persino foto scattate dallo spazio. L'effetto è drammatico e inquietante e molti avvertono un profondo senso di frustrazione e dolore per quanto sta accadendo. Ma qual è il senso di questo grido di dolore mediatico? Si citano continuamente dati di quanto gli incendi di anno in anno stiano aumentando. Si dà la colpa di questa catastrofe al presidente del Brasile Bolsonaro, che non ha mai negato, tra l'altro, di essere favorevole alla deforestazione, tutt'altro. E poi è colpa anche della siccità e quindi sì, del cambiamento climatico. Sfugge però al dibattito il punto principale della questione. Si brucia e si deforesta perché servono suoli per coltivare soia e cereali destinati all'alimentazione animale. Si disbosca per ottenere campi in cui rinchiudere bovini che finiranno sulle tavole di europei e cinesi. Poco conta poi se anche il riscaldamento globale si potrebbe combattere efficacemente proprio a partire dal piatto. Il sistema alimentare globale contribuisce infatti per il 30% delle emissioni globali. E a sottolinearlo è stato proprio di recente un nuovo studio dell'IPCC, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico dell'ONU. Il rapporto diceva chiaramente che basterebbe cambiare dieta in senso vegetariano o vegano per inquinare di meno e l'adozione di diete sane e sostenibili come quelle a base di cereali, legumi, noci e semi offre grandi opportunità per ridurre i gas serra. Lo sfruttamento intensivo dei terreni agricoli come appunto quello dell'Amazzonia, che ha permesso alla popolazione mondiale di quadruplicare da 1,9 miliardi a 7,7 miliardi in appena un secolo, ha infatti contribuito all'erosione e all'impoverimento del suolo, oltre che, come abbiamo tristemente potuto vedere, alla deforestazione e agli incendi. Il dibattito andrebbe dunque orientato su questo. Non è certo semplice perché ciò implicherebbe gioco forza la necessità di cambiare totalmente, radicalmente l'intero approccio del pianeta Terra alla produzione e al consumo di cibo. I governi devono mettere un punto fermo e dire basta con questo tipo di agricoltura distruttiva e indirizzarsi realmente verso un sistema più sostenibile e di produzione locale. Come consumatori possiamo fare ovviamente la nostra piccola parte quotidiana, ma dobbiamo fare pressione come cittadini sulla politica perché è lì che si influisce sulle dinamiche a livello di diritti sociali e ambientali e che attualmente sta distruggendo l'agricoltura contadina locale e appunto l'ambiente, oltre che le vite di milioni di animali. A Parigi anche i pesci rossi hanno un rifugio quando non sono più ben accetti a casa delle famiglie. È l'Aquarium de Paris che raccoglie tutti quei pesci che chi si è stufato di tenerli in casa li vuole dare via. C'è una procedura specifica e una vasca d'accoglienza. Ne ricevono circa 5 o 6 alla settimana, che diventano molto di più in estate. Qui i pesci vengono prima visitati, eventualmente curati, e poi vengono liberati in una grande vasca e quindi alla fine non solo sopravvivono, ma si divertono anche. Nel 1995 esce il quarto album in studio di PJ Harvey, si chiama To Bring You My Love, un album a mio avviso molto bello, forse tra i più belli dell'artista. Da questo album vi propongo qualcosa che ha a che fare con l'acqua e con i pesci. Testo per niente allegro, perché parla di una ragazza con un vissuto abbastanza travagliato che si getta in acqua e muore, e la madre che chiede ai pesci di riportarla nuovamente in vita. Buon ascolto. I lost my heart. Per la 500ª puntata e per tirarci su un po' il morale vogliamo riproporvi una storia davvero eccezionale. Il racconto degli anni trascorsi da Daniela e Sasha, coppia che vive in provincia di Massa Carrara con il passerotto Filippo, trovato in plume pressoché neonato e poi diventato animale domestico. Un racconto sorprendente ed emozionante. sei entrata in contatto con questo esserino? Questo esserino lo abbiamo trovato io e mio marito a fine luglio del 2006, il 21 di luglio precisamente, in giardino. Era completamente nudo, privo di piume, completamente mondo. Lo abbiamo allevato, nutrito e poi abbiamo cercato di dargli la libertà. Purtroppo la nostra gattina l'ha preso, gli ha storto un aletto, una zampetta e noi siamo stati costretti a tenerlo in casa. E da lì è cominciata la storia con Filippo. Filippo è vissuto con noi per 6 anni e 8 mesi, ci ha fatto scoprire mille cose, perché ci siamo resi conto che anche loro, ossia esseri animali non umani, sono in grado di provare le stesse emozioni, gli stessi sentimenti che proviamo noi. Filippo era in grado di provare amore, gelosia, paura, con noi giocava, faceva il bagnetto nelle mie mani, la domenica lo avevamo nel letto con noi, Filippo giocava a nascondino, come mangiava dalla nostra bocca, era sempre a tavola con noi. Filippo era un figlio per noi, un figlio a tutti gli effetti. Ma non potendo volare, viveva a raso terra, immagino. No, lui poteva volare, faceva dei piccoli voli. Lui volava bene, però non da fare dei voli come fanno i passeri normali fuori praticamente. Avrebbe potuto vivere anche 12 anni, perché in natura vivono 12 anni. Purtroppo è successa una cosa, lui è rimasto incastrato dietro il mobile di casa, della sala, ed è morto lì purtroppo. Cioè noi quel giorno eravamo a pranzo su da mia madre, lui si è incastrato dietro e quando l'abbiamo trovato, quando siamo rientrati dopo pranzo, lo abbiamo chiamato, lo abbiamo cercato, ma Filippo purtroppo non c'era. C'era, ma era dietro il mobile e purtroppo è andata così, cioè non ci si può fare nulla. Noi avevamo preso ogni precauzione, in casa ci muovevamo in funzione di lui, perché lui stava in terra, lui era ovunque, quindi noi facevamo molta attenzione a questa cosa qui, non era prevista. Lui era talmente piccino, pesava 24 grammi, quindi in casa tutto era pericoloso. Fuori gli uccelli sono liberi in natura, dormono sugli alberi, dormono sotto i coppi dei tetti, qua la casa comunque per un esserino così piccolo era comunque in qualche modo innaturale, diciamo, ed è vissuto con noi tanto e poco nello stesso tempo. Prima mi dicevi che avete imparato da lui soprattutto a condividere emozioni con un animale dal quale forse non ci si aspettano grandi emozioni. Mi puoi fare qualche esempio di situazioni nelle quali lui sapeva essere espressivo? Allora, lui praticamente riconosceva il significato di determinate parole. Filippo, facciamo il bagno, il bagnetto. Lui sapeva cosa volesse dire bagnetto. Lui si precipitava davanti alla porta del bagno, veniva da me, si posava sulla mia spalla e si riprecipitava davanti alla porta del bagno. Io aprivo la porta, lui entrava, si posava in cima alla cannella dell'acqua e sulla mia spalla, cannella dell'acqua sulla mia spalla, finché io non aprivo l'acqua, aprivo le mani, l'acqua lo voleva rigorosamente calda, l'acqua non doveva essere fredda, Filippo non amava l'acqua fredda, e si faceva il bagno nelle mie mani. Oppure magari quando voleva bere, lui aveva diversi punti dove poteva bere all'interno di casa, soltanto che lui era un vezzo, diciamo, quello di bere dal mio bicchiere. E io quando prendevo in mano la brocca e avevo il bicchiere, lui veniva da me, si posava sulla mia mano, io allungavo il bicchiere e lui intingeva il becco dentro al bicchiere. Oppure Filippo, vieni, lui capiva la parola vieni e gli facevo il gesto di venire sulla mia spalla e lui veniva sulla mia spalla. Mi fa notare adesso mio marito una cosa molto importante, che lui rispondeva al suo nome. Quando chiamavamo Filippo lui rispondeva, faceva ciui, proprio un cinguettio una risposta praticamente, una risposta. È incredibile quello che mi stai raccontando, veramente stento a crederci, però ci credo naturalmente perché me lo stai dicendo. E lo sto dicendo, poi c'è anche il filmato che abbiamo presentato al Vegan Fest, di 16 minuti, ci sono foto e filmati di Filippo che fa il bagno, di Filippo che beve dal bicchiere, di Filippo che fa la danza nuziale a mio marito, perché io per lui sono stata l'eterna madre. Sasha era la sua compagna, perché i passeri in cattività sono monogami, hanno una compagna per la vita, E siccome gli uccelli non riescono a riconoscere il sesso negli esseri umani, al contrario dei mammiferi, Filippo aveva scelto Sasha come la sua compagna. E a Sasha faceva il rito nuziale, la danza d'amore, quella che fanno i passeri maschi alle loro femmine. E anche lì c'è il filmato. Abbiamo filmato tantissime cose di Filippo, quando gioca con me, appunto quando fa il bagnetto, quando fa la danza, quando beve dal bicchiere, quando mangia dalla nostra bocca, quando è a letto insieme a mio marito sotto le coperte. Abbiamo filmato tantissime cose, quindi sono cose proprio testimoniate, filmate via tutti gli effetti, visibili, quindi cioè, non sono racconti, leggende metropolitane, è proprio una cosa vera, reale. E lui pesava solo 24 grammi, io dico, in quei 24 grammi c'era un mondo, c'era veramente il mondo intero, le emozioni, i sentimenti, come dicevo prima, di un essere umano, non mancava nulla, nulla, assolutamente nulla. Avete mai provato a mettere un suo consimile in casa per vedere come avrebbe reagito? Abbiamo altri due passeri in casa, abbiamo una femmina che ci hanno portato. Purtroppo lei non è imprintata, l'hanno trovata praticamente schiacciata da una macchina, quindi lei è come un topino, cammina in terra, si chiama Sofia lei. Però di noi ha paura, noi quando entriamo in casa lei si nasconde nella sua casina, tra l'altro ce l'abbiamo ancora Sofia, e un'altra piccola che anche questa mi hanno portato, che hanno levato da bocca di un gatto, anche lei non vola, quindi si tengono compagnia. Filippo aveva questa Sofia, però Sofia teneva compagnia a Filippo quando noi non eravamo in casa, però quando noi entravamo Filippo non vedeva altro che noi. Lui si riconosceva come uno di noi. I passeri in natura sono gregari, quindi vivono in gruppo, e quindi per lui il suo gruppo eravamo noi, eravamo io e mio marito. Sofia non so se era un appendice per lui, qualcosa che gli teneva compagnia quando noi non c'eravamo. Però Filippo, quando noi entravamo in casa, Filippo stava incollato a noi, non ci mollava. Io quando cucinavo l'avevo in cucina, mio marito al computer, quando io entravo in bagno, anche lui entrava in bagno. Lui ha vissuto la sua vita aspettando noi, perché noi quando uscivamo dal lavoro... Filippo ci aspettava, e spesso quando rientravamo in casa era in cima alla sponda o del divano o della sedia a dondolo che abbiamo all'ingresso, e si sporgeva buffissimo col suo becco, si sporgeva per vedere quando noi entravamo in casa. Mi sembra un animale straordinario che ha avuto, diciamo, la possibilità di esprimere in maniera superiore, diciamo, alla media tutte le sue potenzialità affettive, espressive e comunicative, perché voi gliene avete dato il modo, e anche per la storia da una parte sfortunata che ha avuto. Però direi che, insomma, quei 6 anni e 8 mesi sono stati una bella vita per lui. Sono stati una bella vita per lui, ma soprattutto per noi, perché Filippo veramente ci ha cambiato la vita, ci ha fatto vedere proprio la natura, gli animali con occhi nuovi, con occhi diversi. Io ero figlia di contadini, per me era normale mangiare un animale. Adesso non potrei mai. Ci siamo trovati mio marito un giorno mentre mangiavamo una coscia di pollo, noi è più di 5 anni che siamo vegan, ci siamo guardati e abbiamo detto no, non è possibile, è come se mangiassimo Filippo. Quindi penso che in ogni essere vivente, non umano, quindi quello che noi chiamiamo animale, potrebbe esserci un Filippo in qualsiasi essere vivente. Io ne sono convinta, ne sono consapevole, perché Filippo veramente non ce lo saremmo mai immaginati. Quindi lui ha vissuto bene con noi, ma noi forse abbiamo imparato molto di più noi da lui che lui da noi, sicuramente, sicuramente. I feel your love. I feel time is up. When I was a child, I never knew enough what that do to me. A transient hut, the water's the shell and we are the nut. But I saw a hand arch out of the barrel. Look at all the peaches, how do you celebrate? Appearance out of nowhere, it's already day. I know you have the dove, I'm not getting wet. Looks like a date is set. Show the ferret to the egg, I'm not getting let alone. ora scopriamo con il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, con la rubrica Il Pasto Gentile, che cosa si è inventato per festeggiare questa puntata a due zeri. Sentiamo. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Cento puntate, dico, mica una. E potevamo celebrare questo traguardo con una qualsiasi ricetta? No, qua ci vuole qualcosa di rappresentativo. Una di quelle ricette che accontenta tutti, che conosci da sempre, buona come quelle cose semplici di tradizione contadina, nate vegan ancor prima che nascesse una parola che la definisse tale. Mi sembra una presentazione più che sufficiente. Ora mettetevi ai fornelli che prepariamo una bella caponata. Gli ingredienti per 4 persone sono 2 melanzane, olio per friggere, 2 coste di sedano, un peperone rosso, una cipolla di Tropea, 100 g di olive siciliane verdi in salamoia, un cucchiaio di capperi sotto sale, 250 g di pomodori pelati, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, qualche foglia di menta fresca, del basilico, sale e pepe, 2 cucchiai di aceto di mele e un cucchiaio di zucchero di canna. Lavate le melanzane e tagliatele a quadretti. Disponetele in un colapasta, cospargetele con del sale grosso e lasciate spurgare con la pressione di un peso almeno per un'ora. Quando le melanzane saranno pronte, sciacquate e asciugatele con un panno e fate friggere in olio caldo. Scolate e fate assorbire su carta per frittura. A parte sbucciate e affettate la cipolla, private il sedano delle foglie e tagliatelo a pezzetti. Mettete il tutto in un tegame assieme ad un mezzo bicchiere di acqua. Quando il liquido sarà completamente evaporato, aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva e fate rosolare per 5 minuti. Quindi aggiungete le olive, i capperi, precedentemente lavati dal sale, ed il peperone tagliato a pezzetti e privato del picciolo, i semi e le parti bianche. Fate cuocere per 10 minuti e aggiungete pomodori pelati e passati e lasciate cuocere a fuoco lento. Dopo circa mezz'ora unite le melanzane, aggiustate di sale e pepe e fate cuocere ancora 5 minuti. In un tegamino sciogliete lo zucchero con l'aceto e aggiungetelo alla caponata. Lasciate sfumare e fate riposare. Servite freddo decorando a piacere con foglie di menta fresca e basilico. Se lo gradite potete aggiungere alla vostra caponata dell'uvetta e un cucchiaio di pinoli. E con questo è davvero tutto, almeno per questa settimana. Vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, che è composta da Roberta Marino, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Camilla Lattanzi e Francesca De Matteis, la voce che vi ha tenuto compagnia. L'appuntamento con la puntata numero 501 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde. Stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.